Con Nino Pizza, regista dello spettacolo Nonsense, Stati rivoluzionari transitori, che sarà a Roma, al Macroasilo, il 1 febbraio 2019, con prove aperte il 29, 30 e 31 gennaio. Nino, ben trovato. Buongiorno a tutti. Beh, Ci racconti di questo progetto? è un progetto nel quale noi lavoriamo da tempo. Sostanzialmente il nostro è un teatro di ricerca d'avanguardia. Possiamo dire molto sinteticamente che sperimentiamo gli elementi fondamentali del dispositivo teatrale, che per noi sono quelli di spazio, tempo e corpo, delle coordinate, insomma, che non solo consentono l'evento teatrale, ma rappresentano un po', come dire, le coordinate culturali e della civiltà umana. Il progetto, diciamo, questo, diciamo, il lavoro che presenteremo adesso al Macroasilo, al Macro di Pianizza, diciamo, è un progetto un po' contenitore, ecco, è un contenitore. Infatti tu dicevi prima, lo spettacolo, che in realtà è una performance finale, perché i 3 giorni cosiddette di prove aperte che faremo precedentemente dal martedì al giovedì, sono in realtà è un vero e proprio laboratorio aperto sugli spazi del Macro. Macroasilo è un'iniziativa, direi, davvero interessante, perché è anche coraggiosa, perché apre questi spazi del Macro, diciamo, alle realtà artistiche del territorio, ma non solo. E quindi noi abbiamo interpretato questo invito molto coerentemente col nostro lavoro, e quindi ci recheremo lì al Macro nei 3 giorni, come dicevo, da martedì a giovedì, a sperimentare quei luoghi, quegli spazi. Questo è molto dentro il nostro lavoro, insomma, il nostro lavoro si articola molto sullo studio dello spazio, la percezione dello spazio, in che termini lo spazio cambia l'azione, come l'azione determina un nuovo spazio. E quindi diciamo che questo invito ci ha interessato molto. Quindi saranno 3 giorni di laboratorio aperto, al termine dei quali, il quarto, venerdì 1 febbraio, noi mostreremo una sorta di sintesi sul lavoro condotto in questi 3 giorni. Ok, ci racconti anche un po' dell'esperienza gruppo teatrale non tanto precisi? Sì, non tanto precisi, è un gruppo che ormai, insomma, lavora sul territorio di Roma, penso, da una decina d'anni. L'anno esatto della fondazione in questo momento mi sfugge, ma sono almeno 10 anni. E diciamo che nasce da un'esperienza di teatro sociale condotta alla Santa Maria della Pietà, che, per chi non lo sapesse, è dove c'era l'ex manicomio a Roma. Un'esperienza appunto di teatro sociale della cooperativa Passepartout, che aveva messo assieme sia persone che afferivano a questo centro diurno per loro problemi, sia persone che erano interessate al progetto teatrale di studio appunto sul territorio, sullo spazio, il corpo. E quindi, dopo alcune esperienze molto significative condotte all'interno di quel progetto, allora di teatro sociale, un gruppo di queste persone si è staccato e ha deciso di continuare la ricerca autonomamente. Il lavoro che non tanto precisi fanno è sicuramente quello di presentare spettacoli teatrali, ma fanno anche appunto lavori di, diciamo, di seminari, fanno studi sul territorio. Diciamo, è un gruppo di artisti che si esprime essenzialmente in maniera molto fisica, sfruttando la fisicità del mezzo teatrale. Ma diciamo, la ricerca è una ricerca veramente molto ampia. Diciamo, è un laboratorio sulla realtà, sulla percezione e del contesto e la trasformazione del contesto, insomma. Fornire delle coordinate, quali sono i vostri riferimenti artistici e culturali? I nostri riferimenti artistici sono, diciamo, sicuramente tutte le avanguardie. Diciamo, dal punto di vista teatrale abbiamo dei riferimenti che sono quelli storici, sono Artaud, Grotowski, lo stesso Barba, insomma, sono dei riferimenti, diciamo così, come dire, dei nostri maestri. E poi praticamente appunto tutte le avanguardie, tutto lo studio che c'è stato in questi decenni anche, diciamo, sulla condizione dell'arte nella società, cioè la quotidianità dell'arte. Dire che l'arte è popolare non vuole soltanto dire che deve arrivare a tutti, ma vuole anche dire che deve essere praticamente nel vissuto quotidiano di tutti, praticata da tutti. E noi lavoriamo praticamente proprio a riconoscere questi eventi del quotidiano, a riconoscere la cifra artistica che ci consente di dare un contributo alla trasformazione. Questo progetto avrà un seguito. Che succederà dopo questa performance al macroasilo? Dopo questa performance al macroasilo, noi abbiamo già un impegno adesso in aprile, la prima settimana di aprile, mi pare dall'8 al 13, insomma in aprile, la prima parte di aprile. C'è un progetto, praticamente faremo anche lì una settimana di laboratorio al macro di Testaccio, alla Pelanda. E anche lì quello sarà un vero e proprio studio, quindi lavoreremo con quanti avranno intenzione di iscriversi a questo laboratorio, ed è diciamo un intervento molto sperimentale anche sull'uso di quegli spazi della Pelanda per un futuro, diciamo, in modo tale che possano diventare un polo di riferimento artistico per il territorio. E poi abbiamo, diciamo, nella primavera stiamo lavorando ad altri spettacoli, diciamo che l'attualità è molto dentro il nostro lavoro, per cui insomma stiamo lavorando anche alla luce, come devo dire, delle circostanze politiche infelici che stiamo vivendo in questo periodo. Quindi insomma adesso non voglio anticipare, ma abbiamo un progetto proprio, diciamo, sugli aspetti della libertà, del diritto a spostarsi liberamente sul pianeta. Insomma stiamo lavorando un po' su questo, penso che con quest'altro lavoro saremo pronti in maggio. E allora, in chiusura, per saperne di più, ci lasci i vostri riferimenti web? Noi abbiamo un sito che si trova scrivendo Non Tanto Precisi. Perfetto. E poi c'è anche il sito della cooperativa Passepartout, dove praticamente una sezione dedicata, perché la Passepartout si occupa di cinema, di teatro e di tante altre cose, ma c'è una sezione dedicata anche ai Non Tanto Precisi. Passepartout e Non Tanto Precisi, ma in questo momento non mi chiedere gli indirizzi perché non ce li ho. Basta cercare, insomma. Sì, è facile. Allora, ricordiamo lo spettacolo Nonsense, Stati rivoluzionari transitori, a Roma al macroasilo, con prove aperte dal 29 al 31 gennaio, e lo spettacolo, la performance, il 1 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Nino Pizza, del gruppo teatrale Non Tanto Precisi. Nino, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A risentirci presto, buongiorno a tutti.